china mía, trulala, está cerrando un pozo, venire, trulala. Yo vado a portar la bandiera, la più bella, la bandiera del mio nonno, que era un bel garibaldino. Oh, moretina mía, trulala, aspettami sopra al balcone, trulala. Preparami un mazo di fiori, tanti fiori per settarle quando passo lì da te, col tricolore. Dipinto el cuore con il tricolor. Oh, moretina mia, trulala, ti vedo domani di sera, trulala. Sarà una magnifica sera, dolce amore, ci daremo tanti baci con il cuore garibaldino. Oh, moretina mia, aspettami sopra il balcone. Trulala, esta sera no puedo venir, trulala. Yo vado a portar la bandiera, la più bella, la bandiera del mio nonno, que era un bel garibaldino. Oh, moretina mia, trulala, aspettami sopra al balcone, trulala. Preparami un mazo di fiori, tanti fiori per gettarle quando passo lì da te, col tricolore. Oh, dipinto el cuor con el tricolor. Oh, moretina mia, trulala, ti vedo domani di sera, trulala. Sarà una magnifica sera, dolce amore, ci daremo tanti baci con el cuor garibaldino.